Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buona giornata a tutti, buon ponte per chi ha la fortuna di farlo, di goderselo, anche se non ovunque il tempo ci permette appunto di goderci pienamente questa giornata che non è esattamente una festività, ma insomma quella di domani lo è, per cui qualcuno ha approfittato della chiusura di molte aziende. Detto questo, oggi però a Salva Danaio parliamo di un tema che ha poco a che fare con il ponte, parliamo delle regole per l'applicazione dei tributi sulle attività scudate, delle imposte patrimoniali sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all'estero, in quanto ci sono state delle novità introdotte dalla legge di conversione del decreto fiscale. Dunque, avete un investimento immobiliare in una città europea, un piccolo bilocale in una località che non è l'Italia, avete svolto un'attività lavorativa per un certo periodo all'estero e adesso non sapete come gestire fiscalmente la questione pregressa e come vanno regolate con il fisco le famose attività scudate, cioè oggetto di rimpatrio fiscale, che come ricorderete, tra l'altro, perché la questione aveva sollevato un forte malumore fra gli interessati, cioè tra i contribuenti che avevano sfruttato l'opportunità di scudare i capitali detenuti all'estero, appunto sono assoggettate all'imposta di bollo speciale. E poi l'imposta sugli immobili detenuti all'estero si paga entro il 18 giugno, si chiama IVIE, e colpisce tutti gli immobili detenuti all'estero a qualsiasi uso destinati. Insomma, tante cose da ricordare. Oggi il Sole 24 Ore pubblica una guida su tutto questo argomento, e allora se ancora il commercialista non vi ha chiarito le idee, chiamateci, cercheremo di orientarvi su questa materia che tra l'altro non è chiarissima e abbastanza chiaramente un ginepraio di norme da ricordare, e soprattutto appunto bisogna ricordare tutto bene, perché c'è stato, come dicevamo, questo lavoro di riorganizzazione normativa oltre che di inasprimento che il Parlamento ha varato sui tributi applicati appunto alle attività finanziarie detenute all'estero. Oggi collegato dagli studi di Roma è andato in trasferta il nostro Giovanni Parente, il Sole 24 Ore. Giovanni, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Deborah, a tutti gli ascoltatori. E poi saluto e ringrazio, perché invece a nostro vantaggio ha rinunciato al suo ponte di festività, l'avvocato Fabrizio Vedana, vice direttore generale di Unione Fiduciaria, la società fiduciaria delle banche popolari. Avvocato, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. E allora, io ricordo le modalità, che come sempre sono le stesse per intervenire in diretta. Gli ascoltatori, per porci delle domande sul tema di oggi, possono chiamarci all'800 24 00 24, oppure scriverci alle 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure potete andare anche a commentare il tema di oggi sul nostro profilo Facebook, che è salvadanaio-radio24. Un'occhiata alla borsa prima di partire. Borsa nervosa, incerta, i listini erano partiti benino, poi come avete appreso nel giornale radio c'era stata questa spinta dall'ipotesi di un piano europeo per stimolare la crescita, poi sono arrivate le notizie dalla Spagna che è ufficialmente entrata in recessione, perché nel primo trimestre il PIL ha registrato un calo dello 0,3% dopo il ribasso dello 0,3% del trimestre precedente. Quindi tecnicamente, così come per tutti gli altri paesi che si trovano in questa situazione, dopo due trimestri consecutivi di PIL negativo c'è la recessione tecnica. Oltre questo, Standard & Poor's, dopo aver declassato il merito di credito appunto del paese la settimana scorsa, oggi interviene anche sul rating di 9 banche, sempre per quello che riguarda la Spagna, e quindi insomma tutto questo stamattina è tornato a deprimere i listini del vecchio continente. Parigi sta scendendo dello 0,8%, Francoforte ancora si arrocca sulla parità e non vuole scendere, comunque il listino tedesco è ancora leggermente positivo, più 0,02%, Londra meno 0,48%, Milano meno 0,56% sul principale paniere che è il FTSE MIB. Il listino di Milano oggi punta soprattutto ancora una volta sulla moda, Salvatore Ferragamo più 7%, Monte dei Paschi più 2,23%, Ubibanca più 1,76%, Popolare di Milano in rialzo di un punto. Quindi oggi tutto sommato una giornata discreta per i titoli bancari. Oggi a scendere sono gli industriali, Prysmian meno 2,66%, Fiat Industrial meno 2,56%, Finmeccanica meno 2,31%, meno 2 anche per Enel Green Power, per A2A meno 1,87%. Per Azimut. L'euro sul dollaro è a 1,3213, oggi ci sono anche tanti dati economici abbastanza deludenti. C'è stato il tasso di inflazione in aprile nell'eurozona che in realtà si è attestato al 2,6%, è stato però molto alto quello italiano, dove ad aprile abbiamo registrato un 3,3%, come è noto, per il volo davvero letterale che ha spiccato il prezzo della benzina, che si è trasmesso anche sui prezzi dei beni di prima necessità, sul carrello della spesa, e quindi insomma questo contribuisce anche ad inasprire ulteriormente un po' l'umore delle famiglie italiane. Questi un po' i dati macroeconomici di oggi, ne abbiamo tanti anche in arrivo dagli Stati Uniti, vedremo nel pomeriggio quale sarà la reazione appunto della borsa, ma direi che la borsa la possiamo lasciare, andiamo al tema di oggi e parliamo, come vi anticipavo, delle nuove imposte straordinarie che le famiglie italiane e i contribuenti si apprestano a pagare qualora avessero attività finanziarie che detengono all'estero, oppure anche se le avevano in passato e le hanno scudate, quindi rese trasparenti agli occhi dell'amministrazione fiscale italiana. Ci sono però delle patrimoniali, delle imposte speciali appunto da versare ulteriormente, situazione che appunto, come vi ricordavo anche in apertura, aveva creato molto malumore fra tutti gli interessati, nella platea degli interessati, perché magari, avvocato Vedana, possiamo anche ricordarlo, e molti lamentavano la rottura del patto fra fisco e contribuenti, ma in ogni caso si era anche sollevata la questione della legittimità di un intervento di questo tipo. Non se ne è più parlato, di fatto l'imposta è arrivata, si paga il bollo speciale sulle attività scudate in passato, si paga, e per ora appunto non c'è stata nessuna novità in merito ad un possibile dietrofront governativo. No, c'è da dire che i grossi dubbi di incostituzionalità erano stati sollevati soprattutto sulla imposta straordinaria, cioè su quell'imposta che avrebbe colpito gli scudi fatti dal 2001 fino al 2010, anche se già desegretati prima dell'entrata in vigore del decreto Monti. L'intervento che è stato fatto con il decreto fiscale di pochi giorni fa ha riportato un po' più di equità nel prelievo straordinario, prevedendo che soltanto gli scudi fiscali ancora segretati al 6 dicembre del 2011, ovvero quelli desegretati nel corso del 2011, siano tassati. Questo vuol dire che se qualcuno ha fatto lo scudo nel 2001 e ha utilizzato i soldi scudati negli anni tra il 2001 e il 2010, non dovrà più pagare, come inizialmente era stato previsto, alcuna imposta straordinaria. Ci vuole spiegare che cosa significa segretato, un rapporto segretato, un rapporto finanziario segretato? Vuol dire che l'intermediario presso il quale è stata presentata la dichiarazione riservata, o l'intermediario presso il quale è stato trasferito il conto scudato, deve tenere quei conti in una partizione, diciamo così, informatica, che assicura che di fronte ad un'eventuale richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate vi sia sostanzialmente la risposta negativa sull'esistenza di quel conto, perché è appunto scudato, segretato. Quindi è una, diciamo, sostanzialmente un velo che viene posto di fronte ad eventuali richieste da parte dell'amministrazione finanziaria. Giovanni Parente, ci racconti un po' in che cosa consiste la guida che esce oggi con il Sole 24 Ore, quali sono appunto le notizie più importanti sulle quali i contribuenti interessati a tutto questo appunto devono mettere gli occhi? Assolutamente. Bisogna ricordare che insomma gli interventi correttivi della conversione del decreto fiscale, il decreto 16, non hanno riguardato soltanto lo scudo fiscale, ma anche l'IVIE e il bollo, quindi anche la nuova imposta che è stata messa sui conti correnti all'estero. Io semplifico, forse poi l'avvocato insomma vorrà entrare più nel dettaglio. Quindi c'è stato un restraining a tutto campo di queste imposte straordinarie, e noi le affrontiamo quindi facendo molta chiarezza sulla questione della tassazione degli immobili all'estero, l'IVIE, come dicevi tu. Per cui si è cercato in qualche modo anche qui un coordinamento con le norme comunitarie, e per evitare in qualche modo di incappare in sanzioni dell'Unione Europea. Quindi insomma è stato un po' rivisto l'impianto legislativo del prelievo, sia appunto sugli scudi che sul bollo sui conti correnti, che in qualche modo parifica il conto corrente in Italia a quello tenuto in paesi dell'Unione Europea. Anche perché si pagano appunto i 34,20 euro da quello, esatto, che vedo. capito giusto, l'imposta di bollo che conosciamo già bene. Hai detto tutto relativamente al biglietto da visita della guida, Giovanni? Posso aggiungere una cosa, Deborah, che la guida non si, la guida è in edicola tutt'oggi, ma non si ferma soltanto al cartaceo, perché da stasera sarà online anche la versione integrata, insomma, con tanti contenuti extra. Soprattutto segnalo i chiarimenti degli esperti e le modalità di compilazione dei quadri interessati della dichiarazione dei redditi, quindi il quadro RV e il quadro RM, che faranno un po' più luce su come vanno indicate le attività scudate e le attività finanziarie detenute all'estero e gli immobili. Allora, a proposito di questo restyling che indicavi, Giovanni, ma qui vado all'avvocato Vedana, la prima indicazione importante che mi pare emerga è che, per esempio, per quello che riguarda la patrimoniale, la cosiddetta imposta una tantum, l'imposta straordinaria sulle attività finanziarie scudate, appunto oggetto di rimpatrio in passato, intanto questa va versata entro il 16 luglio e quindi come dire, siamo molto distanti rispetto a quanto era stato predefinito appunto inizialmente, perché mi pare che la disposizione iniziale della norma, avvocato, fosse che si dovesse pagare entro febbraio, per cui è stato dato un po' più di tempo ai contribuenti di digerire la novità e forse fare i conteggi, non so, oppure così definire un po' bene la questione con il proprio intermediario. È così, diciamo, inizialmente la norma prevedeva il 16 febbraio, poi c'era stata una prima proroga al 16 di maggio con il decreto fiscale oggetto di conversione, che è stato durante il cammino di conversione modificato e portato al 16 di luglio. Quindi il 16 di luglio è la scadenza entro la quale l'intermediario, è bene ricordarlo, l'intermediario presso il quale il cliente ha il conto scudato o aveva il conto scudato, per quelli che devono fare il versamento dell'imposta straordinaria, devono far pervenire la liquidità o usare la liquidità che hanno sui rispettivi conti aperti presso l'intermediario. Sarà l'intermediario, quindi non può il contribuente in autonomia, non può fare l'F24 come dovrà fare con l'IMU per intenderci, ma dovrà farlo l'intermediario questo versamento entro il 16 di luglio. Versamento che andrà fatto utilizzando uno dei due codici tributi messi a disposizione dall'amministrazione finanziaria, quindi a seconda che si parli di un'imposta speciale sugli scudi per quelli ancora segretati, ovvero un'imposta straordinaria per quegli scudi che non sono più segretati ma che erano stati oggetto di prelevamento nel corso del 2011. È bene ricordare che la scadenza del 16 di luglio è lontana, ma ahimè il tempo corre e noi intermediari attendiamo qualche indicazione ulteriore da parte dell'amministrazione finanziaria su aspetti che anche questo ulteriore intervento normativo non ha chiarito. Per esempio? Per esempio il famoso tema del come ci si deve comportare se è intervenuta nel periodo del 2011 la morte di colui che aveva fatto lo scudo. Quindi come ricade la questione sugli eredi, teoricamente? La questione degli eredi. Altro tema è che succede se, su suggerimento magari del suo commercialista, lo scudante nel corso del 2010 ha esibito la dichiarazione riservata di fronte ad un accertamento fiscale dove gli faceva probabilmente comodo esibire la dichiarazione riservata per dimostrare che quelle fonti di reddito erano giustificate dal fatto che aveva fatto lo scudo. Vale in questo caso, è una desegretazione l'esibizione della dichiarazione riservata oppure no? Questi sono alcuni dei temi sui quali ci attendiamo ancora qualche chiarimento, quindi il 16 di luglio, hai detto bene, è abbastanza lontano, sono 2 mesi e mezzo, però mancano ancora delle indicazioni operative per noi intermediari, quindi confidiamo sul fatto che possano arrivare presto. Allora, eccoci ritrovati in diretta. Volevo solamente commentare alcuni dei messaggi che stanno arrivando da parte dei nostri ascoltatori, perché mi dispiace quando i giudizi che arrivano sono sempre un po' così generici, a volte un po' anche fuori luogo, perché c'è addirittura chi paragona il nostro palinsesto completamente riorganizzato nella giornata di venerdì scorso, perché come sapete ci siamo occupati della questione degli imprenditori suicidi con la nostra campagna Disperati Mai, e oggi c'è chi scrive: vi occupate dei ladri dando consigli a chi ha portato le proprie attività finanziarie all'estero in passato e adesso si vuole regolarizzare e quant'altro. Allora, qua non vorrei fare come al solito tutta l'erba un fascio. Sicuramente molti negli anni passati hanno approfittato di grandi libertà fiscali appunto per poter fare ciò che volevano portando il proprio denaro all'estero, e oggi chiaramente, dopo aver deciso di sanare queste situazioni con il fisco italiano, si ritrova a dover ripagare una doppia tassazione, sono problemi loro. Però non è che in passato tutti quanti hanno fatto questo lavoro, lo abbiamo sollevato anche in passato questo problema, nelle altre trasmissioni che abbiamo organizzato su questo argomento c'è anche tutta una serie di persone che magari si è ritrovata ad aver ereditato situazioni finanziarie di parenti detenuti all'estero e che oggi deve gestire non sapendo come fare queste posizioni con il fisco, per cui io, siccome sulla buona fede delle persone non ho mai troppi dubbi, vorrei ricordare che ci sono anche queste persone, ci sono non solamente le persone che hanno scudato e regolarizzato le posizioni appunto fiscali detenute all'estero, le attività finanziarie detenute all'estero appunto le hanno sanate con il fisco italiano, ci sono anche persone che oggi decidono di fare degli investimenti all'estero ma hanno bisogno appunto di avere dei chiarimenti su come questi rapporti si gestiscono con il fisco italiano, per cui non generalizziamo come al solito, cerchiamo anche di dare il giusto peso alle cose. Detto questo, molti di voi sicuramente hanno ragione, però le questioni sono state regolarizzate e oggi questi contribuenti si trovano a pagare una tassazione aggiuntiva, poi hanno il diritto di arrabbiarsi o no, sono giudizi che lascio a voi, e a noi quello che interessa è capire come funziona il bollo speciale sulle attività scudate, l'imposta una tantum. Giovanni Parente, quanto mi fanno sudare questi commenti, ma ho detto proprio delle cose fuori luogo secondo te, oppure insomma qualche cosa di corretto ho tirato fuori da questa bocca? Guarda, non per ospitalità, però come al solito hai detto la cosa più corretta. Soprattutto vorrei ricordare una cosa, vorrei ricordare che nel momento in cui il decreto Salva Italia, che ha istituito questa imposta straordinaria, cioè praticamente la manovra di dicembre, la manovra lacrime e sangue con cui il governo Monti si è presentato al paese, ha istituito anche l'IMU. Di fatto, insomma, queste misure in più sono delle misure anche di equità per chi ha evidentemente usufruito di un vantaggio attraverso lo scudo fiscale e quindi adesso si trova a dover a pagare un tributo ulteriore che mi sembra anche dovuto rispetto ai sacrifici che vengono chiesti alla pluralità dei contribuenti italiani con l'introduzione dell'IMU. Per cui non è che con la nostra trasmissione vogliamo dedicare loro un'attenzione particolare, guardate, fate attenzione, sistemate la vostra posizione con il fisco perché altrimenti vi corre dietro, no, cioè il tema è far capire che insomma che queste cose ci sono, che vanno conosciute, che colpisce giustamente questa platea che però tutto sommato forse anche ha avuto un pochino di ragione ad arrabbiarsi quando uno rientra con i suoi capitali e dice insomma va bene io mi rimetto a posto e poi però nel giro di 2 anni la tassazione viene riproposta in un modo o in un altro, è vero in certo qual modo che il patto con il contribuente si rompe, però insomma questa che stiamo vivendo è una situazione assolutamente straordinaria, pertanto ci sta anche questo. Avvocato Vedana, prima di sentire le domande degli ascoltatori le pongo un sms che ci ha mandato appunto nostro amico al 349-238-6666 che ci chiede di fare un po' di chiarezza sulle percentuali e le imposte appunto e le aliquote che vanno pagate in relazione al bollo o all'imposta una tantum e definendo quando si applica l'uno, quando si applica l'altro, facciamo proprio un po' l'ABC delle imposte straordinarie delle quali parliamo questa mattina. Allora, partiamo da quelli sugli scudi. Fortunatamente per il primo anno non c'è da fare molta chiarezza se non ricordare che l'imposta è l'1%, sia l'imposta speciale sia l'imposta straordinaria, che andrà applicata sul valore delle attività, nel caso delle imposte speciali appunto, l'imposta speciale di bollo, sulle attività che risultano ancora segretate al 6 dicembre, quindi se al 6 dicembre il signor contribuente che aveva scudato aveva presso un intermediario italiano 100.000 euro scudate, deve fare il calcolo l'1% di 100.000 euro presto fatto. Se quello stesso contribuente o diciamo altro contribuente aveva scudato nel corso del 2003, nel corso degli anni aveva utilizzato i 100.000 euro che aveva scudato e nel corso del 2011, in particolare al 6 di dicembre, ipotizziamo si ritrova soltanto con 20.000 euro sul suo conto. Esatto, questi soldi non ci sono più, se la provvista non c'è. E il resto non c'è, si ritrova solo 20.000 euro rispetto ai 100.000 euro iniziali, pagherà l'1% su questi 20.000 euro che residuano al 6 dicembre. Ovviamente il presupposto è che gli altri 80.000 li abbia persi per strada, perché aveva comprato un garage, ha comprato qualcos'altro prima del 2011, quindi se gli 80.000 li ha persi per strada prima del 2011 pagherà l'1% su 20.000 euro. Se tutta questa operazione invece di utilizzo di questo denaro l'ha fatta nel 2011? Allora, in quel caso deve comunque pagare sull'intero importo, se i 100.000 euro che aveva scudato nel 2001 li ha utilizzati nel corso del 2011, perché ha comprato una piccola casetta al mare spendendo tutti i 100.000 euro, il fisco dice: hai fatto dei prelevamenti, delle dismissioni nel corso del 2011, non mi interessa, comunque mi devi pagare per il solo anno 2012 relativamente al 2011 l'1% sui 100.000 che avevi scudato. In passato la vecchia norma, come era inizialmente, diceva che questo 1% avrebbe dovuto pagarlo anche se la casetta al mare se la fosse comprata prima del 2011 con il denaro scudato. Allora, questo è il bollo speciale sulle attività scudate, quello che abbiamo definito. Ho detto sia il bollo speciale che il bollo sulle imposte straordinarie. Altra storia è invece la famosa imposta sugli immobili, sì, piuttosto che sulle attività finanziarie detenute all'estero fuori dallo scudo, che sono, è altra parrocchia. In quel caso, a differenza di quanto abbiamo detto adesso per lo scudo, abbiamo detto comunque il versamento dell'imposta deve essere fatto tramite un intermediario. Nel caso in cui il signor Pinco ha un immobile all'estero, ha un conto all'estero che ha aperto dopo lo scudo o prima dello scudo ma non ha deciso di scudare, deve pagarci delle imposte, non lo fa il suo intermediario, lo deve fare lui attraverso la compilazione di un nuovo quadro della sua dichiarazione dei redditi, con le scadenze che sono state recentemente prorogate, se un 7.30 o vedremo se quando verranno prorogate nel caso di Unico. Allora, in questo a caso proposito, è il contribuente che deve preoccuparsi di pagare e versare. Allora, facciamo un esempio pratico grazie al caso di Alberto da Verona, che ha un monolocale a Parigi. Beato lui. Alberto, buongiorno, e quindi un po' come buongiorno. Intende disciplinare questa questione? No, il discorso è questo: io pago la tax foncière già regolarmente a Parigi, devo pagare un'ulteriore tassa oppure quello che pago in Francia mi viene decurtato da quello che dovrei pagare in Italia? Da quanto tempo ha questo monolocale, Alberto? Dal 2002-2003. Grazie. Che non è una cosa di ieri. Infatti, avvocato Vedana, fino a questo momento teoricamente Alberto al fisco non ha mai comunicato, glielo vorrei chiedere un attimo, Alberto, quindi lei fino a questo momento non ha mai detto al fisco italiano che aveva questa proprietà parigina? No, però la banca aveva comunicato che avevo i soldi, perché li ho trasferiti da banca a banca. Io ero titolare e sono titolare di un conto corrente della Banca Popolare di Verona, che aveva una filiale del Banco di Novara, e ho trasferito i soldi ufficialmente. Difatti hanno fatto la dichiarazione e so che posso tenere il conto corrente che ho in Francia per pagare le spese condominiali, la tax foncière d'habitation, senza ulteriori aggravi. Alberto, aspetti lì, avvocato Vedana, è sufficiente quello che ha fatto Alberto per mantenere appunto la regolarità del rapporto con il fisco italiano rispetto a questa sua proprietà in Francia? Potrebbe essere sufficiente, ma forse non del tutto. Allora, se ha il conto all'estero, e questo conto all'estero che lui dice utilizza per pagare le spese dell'immobile, così come le tasse che deve al fisco francese, ha comunque un saldo inferiore ai 10.000 euro, non andava messo nel famigerato quadro RV della dichiarazione dei redditi. Diverso è la compilazione di quel quadro con l'indicazione dell'immobile. A partire da 3 anni fa sostanzialmente, tutti gli immobili, a prescindere dal fatto che fossero a disposizione, quindi la classica casa di vacanza, oppure affittati, dovevano essere messi nel quadro RV della dichiarazione dei redditi. Se in questi anni non è stato fatto, l'ascoltatore potrebbe trovarsi a che fare con quello che anche il Sole 24 Ore oggi parla nell'inserto di rischio stangata se non si è fatto l'RV. Cioè, va a pagare l'imposta che deve al fisco italiano, sempre che la debba versare, che abbiamo detto lui versa già un'imposta al fisco francese. Se facendo due conti quell'imposta è almeno pari allo 0,76% del valore catastale dell'immobile, lui non deve versare nulla al fisco italiano, dovrà semplicemente dare evidenza del fatto che ha già versato un'imposta al fisco francese. questo nell'apposito nuovo quadro RM della dichiarazione dei redditi. Altro è l'RV. L'RV è un quadro dichiarativo, abbiamo detto, un quadro che deve essere compilato a prescindere dal fatto che l'immobile produca reddito oppure no. Il contribuente dovrebbe, l'ascoltatore dovrebbe verificare se nel corso degli anni ha sempre fatto, almeno dal 2009 ha compilato l'RV indicando questo immobile in Francia oppure no. Se non l'ha fatto, verifichi col suo commercialista se è in tempo per fare almeno per alcuni anni il ravvedimento operoso. Certo. Allora andiamo invece adesso in un'altra località del nostro continente. Cristina da Brescia, buongiorno, una cittadina romena, lei? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, e la mia domanda è, quando voi dite che c'è da pagare le tasse sulle case detenute all'estero, che potrebbe interessare a me come a tanti milioni di cittadini rumeni, certo, vi riferite ai cittadini italiani con le residenze in Italia, che bisogna pagare in Italia, o che noi già paghiamo tutte le tasse nei nostri paesi, no? Ma quando mi dite c'è da pagare anche qui in Italia, io sono cittadina rumena, con residenza qui in Italia, pago anch'io? Grazie Cristina. Avvocato Vedana, ce la facciamo in 40 secondi a tranquillizzare Cristina oppure non la tranquillizziamo più di molto? Non la possiamo tranquillizzare più di molto, perché in questo momento la legge parla di soggetti passivi all'imposta sugli immobili all'estero, le persone fisiche senza altra specificazione. Quindi prescinde dal fatto che sia cittadino oppure no, ed è uno proprio dei temi che sono stati evidenziati sempre oggi nel vostro dossier, cioè sarebbe utile che venisse chiarito se semplicemente sei residente fiscale in Italia e paghi le imposte in Italia, ma hai l'immobile all'estero perché sei cittadino rumeno, se ci devi pagare oppure no delle imposte. Sembrerebbe dalla lettura pura e semplice della norma, la risposta sarebbe sì. Attendiamo chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria. Allora, eccoci ritrovati in diretta. Stavo curiosando intanto tra le mail che ci stanno arrivando da parte dei nostri ascoltatori, appunto sulle modalità con cui ci si può regolarizzare con il fisco qualora si siano scudati capitali detenuti all'estero in passato e attraverso appunto le opportunità offerte dal fisco negli ultimi anni, che tanto vi fanno arrabbiare, ma di fatto questa è stata l'unica possibilità che il governo e lo Stato appunto ha trovato per poter costringere i contribuenti che si sottraevano ai loro impegni appunto per poter rientrare, e quindi questo è quanto. E poi ci sono naturalmente tutte quelle persone che invece, pur non avendo scudato in passato, perché non avevano necessità di farlo, hanno comunque attività finanziarie detenute all'estero. Ci possono essere, Giovanni, parente, tante tipologie di situazioni. Abbiamo sentito il caso del nostro Alberto da Verona, che ha una proprietà immobiliare a Parigi, così come per esempio, io dicevo all'inizio, anche persone che magari hanno delle temporanee situazioni di lavoro all'estero e che aprono per questi periodi anche magari contenuti appunto un conto corrente per poter accreditare il loro stipendio, e non sanno che magari anche queste posizioni devono essere comunicate al fisco italiano. E qua non è che parliamo di evasori o chissà di quali situazioni che però si possono verificare e che vanno chiaramente tenute in considerazione. Certo, ovviamente, quindi insomma c'è un obbligo che si chiama di monitoraggio ed è quello appunto imposto dal quadro RV di Unico, mentre insomma per quanto riguarda il bollo fisso sui conti correnti, quello che dicevi tu, ha un suo coté dichiarativo, cioè va indicato all'interno del quadro RM del modello Unico. Anche qui insomma, ripeto, l'imposta proporzionale dello 0,1% vale soltanto per chi è al di fuori dell'Unione, ha un conto al di fuori dell'Unione Europea. Nel caso in cui il conto sia detenuto all'interno dell'Unione Europea, c'è un'imposta fissa di 34,20 euro. Una cosa importante volevo dirvi sulla questione dell'IVI è che l'IVI ha appunto un'aliquota pari allo 0,76%, però è stato previsto un'aliquota ridotta allo 0,4%, quindi in qualche modo uniformandosi con l'aliquota dell'IMU. Esatto, esattamente, proprio il parallelo è quello giusto. È stata prevista un'aliquota ridotta dello 0,4% per chi lavora all'estero per lo Stato o per organizzazioni internazionali. Quindi in questo insomma c'è stato un correttivo che in qualche modo cerca di tenere conto di chi c'è dovuto andare anche per servire lo Stato all'estero, e quindi insomma non deve scontare un'aliquota così alta. È importante sottolineare, Deborah, una cosa, insomma, che l'IVI si applica sul costo d'acquisto, sul valore di di mercato per quanto riguarda i paesi extraeuro, invece per quelli comunitari, insomma, sostanzialmente vale il valore catastale. Ce lo chiedeva un ascoltatore, infatti volevo proprio sollecitarti su questo, quindi... Però il problema è trovare il modo di trovare in qualche modo un'analogia sul valore catastale che è applicato secondo regole diverse comunque in altri paesi, quindi bisognerà fare un ulteriore sforzo per capire qual è la regola più vicina per determinare il valore catastale in altri paesi dello spazio. Quindi per esempio se dovessimo ritornare a commentare il caso di Alberto da Verona che ha questa casa a Parigi, lui dovrebbe prendere quello che è il valore catastale indicato dall'atto di rogito che ha fatto in Francia, Parigi. Sostanzialmente. Allora andiamo ad Alessandro da Alessandria. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, vi complimento per la trasmissione. Grazie. Io ho una formula di vitalizio in Francia di cui tutti i mesi mando una rata mensile attorno ai 320 euro, scudato già nel 2006-2007. Adesso in questo caso... Ha una forma di vitalizio che percepisce lei, come lo manda? No, io lo mando a due persone anziane, tutti i mesi le mando 300 euro mensilmente, fino al loro decesso. Poi diventerei in piena forma proprietario dell'immobile. Mm. Abbiamo già fatto l'atto da un notaio nel 2005 e si continua ovviamente a versare tutti i mesi. Volevo sapere se... sono subentrerò anche con questa aliquota da pagare. Aspetti lì Alessandro che magari l'avvocato Vedana ha bisogno di qualche chiarimento in più. Avvocato, come deve disciplinare la sua situazione Alessandro? Mi pare che l'ascoltatore ha aderito allo scudo fiscale, bisogna capire se innanzitutto ha mantenuto la segretazione oppure no. Se ha tolto la segretazione prima del 2011, abbiamo detto non dovrà pagare nessuna imposta speciale sugli scudi, né straordinaria. Se invece ha mantenuto la segretazione ad oggi, la pagherà fin tanto che la manterrà, quindi abbiamo detto per quanto riguarda l'anno 2012 pagherà l'1% e per gli anni successivi pagherà nel corso del prossimo anno l'1,35% fin tanto che mantiene la segretazione. Poi si ridurrà ulteriormente allo 0,4 a partire dal 2014, però non ho capito se questa è la domanda dell'ascoltatore oppure un'altra. Alessandro. Sì, no, nessuna segretazione, io ho fatto la mia dichiarazione, ce l'ho nel quadro RV e tutti i mesi le mando 320 euro, solo che ovviamente adesso l'immobile è salito di prezzo, ho avuto un concordato con la banca per scudare ovviamente 2-3 anni fa questo importo che avevo versato ai proprietari dell'immobile, tutti i mesi io le mando 320 euro. Mi devo pagare delle imposte superiori con la nuova legge o no? Io guardate, sarà che sono veramente un po' dura di testa, non ho capito perché manda questo vitalizio Alessandro, perché praticamente lei al termine, quando queste persone verranno a mancare, subentrerà nella proprietà di questa abitazione? È una sorta di nuda proprietà? Sì. Ah, ecco, perfetto. Avvocato Vedana, ci sono arrivata. Sì. La normativa parla di diritto di proprietà o diritti reali analoghi, che nel nostro caso sarebbero ad esempio il caso dell'usufrutto, la nuda proprietà, sono da considerare tali. Bisogna capire i sensi della normativa francese se si possono considerare tali, è un altro dei temi sui quali attendiamo dei chiarimenti, però mi parrebbe che per il semplice fatto di potenzialmente avere comunque a distanza di anni un diritto su questi beni immobili lo legittima tra virgolette a pagare delle imposte, bisogna vedere in che termini, in che misura, su questo magari se l'ascoltatore vuole ci possiamo mandare una mail un po' più dettagliata, facciamo una ricostruzione legislativa della vicenda. Sono Franco da Ravenna, ho scudato nel 2001, ci scrive, poi ho chiuso il conto segretato immediatamente, ho scudato una seconda volta il 10 dicembre del 2009 e ho chiuso il conto segretato immediatamente, se ho ben capito non devo pagare niente in quanto non ho conti segretati. Avvocato Vedana. Confermo, se i conti segretati sono in Italia, o meglio gli ex conti segretati sono in Italia, pagherà le imposte che deve pagare alla luce del nuovo articolo 19 del decreto Monti chi detiene delle attività patrimoniali in Italia. Se questi conti sono all'estero e può averli mantenuti all'estero pur togliendo lo scudo, pagherà le nuove imposte previste sui conti detenuti all'estero. Quindi ai fini dello scudo, se ha desegretato prima del 2011 non deve pagare imposte né speciali né straordinarie. Allora io direi che mi manterrei a questo punto sulle indicazioni generali che abbiamo dato, perché poi, come avete sentito chiaramente entrando nel merito dei casi singoli dei nostri ascoltatori, ci perdiamo sempre un po' per strada, ma questo è naturale perché poi ogni singola situazione è piuttosto complessa e chiaramente va gestita diversamente. Detto questo, adesso direi che possiamo andare, visto che non l'abbiamo mandata in onda venerdì perché abbiamo voluto dedicare il nostro palinsesto appunto alla campagna Disperati Mai, anche Salva Danaio aveva aderito. Abbiamo in l'ultima delle nostre pillole elaborate in collaborazione con l'INPS per spiegare il funzionamento dell'ultima riforma delle pensioni. Negli ultimi giorni ci siamo dedicati ad una sintesi dei punti cardine. L'ultima pillola di oggi è dedicata al tema dell'abolizione di quote e finestre. Pensioni, le novità della riforma in collaborazione con INPS. Le vecchie regole prevedevano le quote per aver diritto alle pensioni di anzianità e stabilivano le finestre per determinare il momento del pensionamento. La riforma Monti-Fornero ha abolito quote e finestre. Che cosa comporta questo cambiamento? Con l'abolizione delle pensioni d'anzianità sono state eliminate anche le cosiddette quote, cioè quella somma tra età anagrafica e anzianità contributiva necessaria per ottenere la pensione. La riforma ha introdotto invece la pensione anticipata, che nel 2012 è concessa a chi ha un'anzianità contributiva di almeno 42 anni e un mese se uomo e 41 anni e un mese se donna. È stato abolito anche il sistema delle finestre, quindi con le nuove regole la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti. Condizione necessaria per l'erogazione della pensione è la cessazione del rapporto di lavoro in essere al momento del perfezionamento dei requisiti. Grazie a Giovanni Parenti e all'avvocato Fabrizio Vedana per essere stati con noi. Salva Danaio termina qui, noi ritorniamo mercoledì prossimo e naturalmente ci tocca rifare un punto sull'IMO con tutte le novità che sono arrivate negli ultimi giorni, la rateizzazione, la protesta dei sindaci e tanto altro. Buon primo maggio a tutti da Deborah Rosciani.